Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, la nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Il servizio d'argenteria. Al mercatino delle pulci, nella città mia, girando e rigirando per magiche bancarelle l'ho incontrato, e non che lo cercassi affatto, eppur che meraviglia, che stupore, un antico servizio d'argenteria, impero di stile. Resistito o no alla tentazione, l'ho preso, ma solo Dio sa quanto ci è voluto perché tornasse l'antico splendore suo, ed ora ti guardo meravigliato, un nuovo pezzo di un lontano passato abbellisce la dimora mia. Piccole gioie della vita, direi io.